Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao Olga. Questa settimana parliamo di un tema sicuramente non nuovo, un tema che riprendiamo periodicamente perché è uno dei nostri temi preferiti, è un tema di cui parlare e riparlare sempre. Il tema di oggi è la guerra civile spagnola, ma non vi racconteremo la storia della guerra civile spagnola come altre volte abbiamo fatto da molti punti di vista, dal punto di vista delle brigate internazionali, dal punto di vista della comunicazione, delle foto di Robert Capa o dal punto di vista dei fascisti e degli antifascisti. Questa settimana abbiamo scoperto una storia, come ce ne sono moltissime, sono sempre molto affascinanti, molto importanti, che ci ricordano davvero l'importanza di questo conflitto che non si dice mondiale perché dopo un paio d'anni, dopo pochissimo, c'è la Seconda Guerra Mondiale, ma che segna veramente uno spartiacque per la lotta antifascista, per quello che sarà poi la vittoria del fronte antifascista nella Seconda Guerra Mondiale. A proposito di antifascisti, in Italia ci sono moltissime persone. L'Italia è il paese che dà più antifascisti, uomini e donne, per la guerra civile. Antifascisti che non partono dall'Italia, la maggior parte, sono circa, per le fonti sono circa 4.000, ma che arrivano da italiani, da altri paesi europei, perché, o extraeuropei, perché ricordiamolo che in Italia non potevano esserci, a causa del fascismo, non potevano esserci antifascisti. Molti italiani partono da altre parti d'Europa, dalla Francia soprattutto, dal Belgio, dalla Svizzera, e sono qui come esiliati, quelli che il fascismo chiamerà fuoriusciti. Di questi fuoriusciti, appunto, molti arrivano dalla Francia, dal Belgio, vivono in questi posti già da molto tempo, fanno attività politica e non perdono l'occasione, questa prima grande occasione, di scontrarsi davvero con il nemico. Il nemico è Francisco Franco, che all'inizio del 1936, con un manipolo di soldati, attraversa lo stretto di Gibilterra e occupa l'Andalusia. Franco si dice, è certo che arriverà subito a Madrid e conquisterà il potere, a discapito della Repubblica Spagnola, che aveva avuto delle libere elezioni poco tempo prima. Franco è sicuro di arrivare a Madrid, ci arriverà dopo 3 anni. In Spagna confluiscono 40.000 persone non spagnole, che poi verranno chiamate le brigate internazionali, arriveranno da tutte le parti del mondo, davvero dalla Cina all'America, da tutta Europa. I più numerosi sono gli italiani che, come dice Carlo Rosselli, oggi in Spagna, domani in Italia, combattono contro il loro nemico esterno e il loro nemico interno, il fascismo. Noi andiamo a raccontare oggi appunto una di queste storie, una storia molto vicina a noi, anche se è successa appunto 80 anni fa. Raccontiamo la storia di una coppia di molesi. Gli antifascisti bolognesi sono più di 100 e sono sparsi tra Bologna e provincia. Noi parliamo di questa coppia di Imola perché appunto è una coppia che va insieme a combattere contro i fascisti, contro il regime di Franco. Non arriva da Imola, come abbiamo detto gli antifascisti italiani arrivano soprattutto dalla Francia, e arrivano in Spagna, e ci piace raccontare questa storia perché loro non combattono armi in mano ma fanno propaganda. Loro lavorano in una radio, lavoreranno in questa radio che si chiama Radio Milano e Radio Barcellona, e loro sono Ezio Zanelli e Giovanna Zanarini. Giovanna Zanarini, tra le altre cose, è l'unica, per quanto ne sappiamo, è l'unica antifascista donna nel bolognese che va a combattere nella guerra civile spagnola. Di Ezio Zanelli sappiamo molte cose. Lui è nato il 31 gennaio del 1903 a Imola. Del 26 è già fuori perché antifascista, era stato già accoltellato quando aveva 19 anni nel circolo Andrea Costa di Imola, è già segnalato nel 25, quindi decide di scappare per rientrare in qualche, per qualche tempo clandestinamente in Italia. Le varie vicissitudini della vita lo portano in Francia, poi lo portano anche nell'Unione Sovietica, dove fa attività clandestina per il PC. Il Tribunale Speciale nel 1934 lo condanna in contumacia. Nel giugno 37, dopo qualche anno in Francia, decide di andare in Spagna. Raggiunge la Spagna in un modo rocambolesco, prende un aereo con un passaporto cubano, entra nel territorio spagnolo. Quello che fa è la propaganda a sostegno della partecipazione dei volontari antifascisti, e con lui c'è Giovanna Zanarini, la sua compagna, quella che sarà la sua compagna di vita. Però di Giovanna non sappiamo molto, e dalle fonti che possiamo ricavare sappiamo solo che appunto espatria legalmente nel 35 per andare a raggiungere il suo compagno, dopodiché sappiamo che è fornaciaia, che lavora anche lei nella radio clandestina e che rientra in Francia prima in Francia poi in Italia alla fine del 39. Prima di continuare noi ci ascoltiamo un pezzo, il pezzo è di un album appena uscito di Cesare Malfatti, della Cruz, e si chiama La storia è adesso. La storia è adesso, la storia è qui. Mai più concreta di così. So quant'è difficile. Lo so. Storia nuova, ma Bentornati su Radio Città Fucico, siete su Vallune della vostra mezz'ora di storia. Noi vi stiamo raccontando la storia di una coppia di antifascisti molesi. Sono Ezio Zanelli e Giovanna Zanarini. Non vogliamo solo raccontarvi questa storia perché abbiamo conosciuto la figlia di questi due antifascisti che si chiama Giuliana Zanelli e che vuole raccontare sempre giustamente la storia fantastica di queste due persone che sono i suoi genitori, e noi l'abbiamo intervistata e ci ha raccontato qualcosa in più dei suoi genitori. Il pensiero è andato in modo particolare a quel momento della storia della mia famiglia in cui è coinvolto non solo mio padre ma anche mia madre e anche poi lo zio materno, che è stato anche lui volontario garibaldino in Spagna. Ma di mia madre che dire? Mio padre, che era comunista fin dal 1921 e era diciottenne, giovanissimo, dovette scappare dalla sua città, che è Imola, nel 1926, direi nell'ottobre del 26. Mia madre, assieme alla sorella di mio padre, lo accompagnò alla stazione, per una stazione periferica, non a Imola ma a Castel San Pietro, così nascondendolo in qualche modo in una specie di automobile così di prestigio, accompagnando come così, in modo che passasse attraverso eventuali controlli come un passeggero con due ragazze. Cosa succede? Io sarei molto più curiosa di quello che i documenti mi dicono. E comunque mio padre scappò a Milano, poi da Milano a Vienna, poi da Vienna in Russia, poi da Russia torna in Italia clandestino, insomma, tutta una storia in cui il legame con mia madre non si perse. Loro erano già sposati? No. Loro si sono sposati che ero già nata. Ok. Si sono sposati che ero già nata, perché poi ci furono lunghi periodi di distacco. Certo. Ti racconterò. Allora, questo legame non si perde, no. Sono fidanzati, sono morosi, si direbbe da noi. Ma non sono sposati, non c'è nessun legame, come dire, ufficiale. Mio padre, che viaggiava tra vari paesi d'Europa con della stampa clandestina dentro le valigie, sotto nome falso, con documenti falsi, eccetera, ebbe anche l'ardire di dare un appuntamento a mia madre a Firenze. Come poteva essere? Poteva essere che comunque viaggiavano delle lettere con inchiostro simpatico, delle lettere, come devo dire, chiamiamole clandestine, cioè, insomma, c'erano persone, amiche di mia madre e di mio padre, che facevano da tramite, inviavano queste lettere, e attraverso queste lettere la corrispondenza tra mio padre e mia madre continuava. Ma la mamma, che tu sappia, faceva qualche azione antifascista a Imola oppure? In quel momento? Poche cose, certo. Siamo nel momento più rigido del ventennio. So che con le sue amiche antifasciste, lei penso che si sia iscritta, ho capito dalla sua storia, che si è iscritta al Partito Comunista nel 24-25, in quel momento mio padre stava già per dover abbandonare l'Italia. Con le sue amiche dette via durante una processione a una Madonna, alla Madonna del Piratello di Imola, dette via, fece scivolare lungo la processione dei volantini antifascisti. È l'unica azione di cui mi si è giunta notizia, certo, da lei, ma anche da quelle amiche che poi continuarono insieme a lei questa opposizione negli anni successivi, anche dopo la guerra, no? Si è parlato di queste cose, sono state raccolte queste testimonianze. Certo. E poi mia madre a un certo momento raggiunse mio padre nel 35, In Francia, sì, perché mio padre, che pure aveva anche questo traffico con l'Italia sotto falso nome, con valigie doppio fondo, eccetera, eccetera, mio padre soggiornava anche lunghi periodi in Francia, presso il centro estero del Partito Comunista d'Italia, allora si chiamava Partito Comunista d'Italia, ecco, beh, insomma, comunista sempre era, certo. Dopo divenne il Partito Comunista Italiano. Mio padre accettò che mia madre lo raggiungesse in Parigi, figuriamoci, per una imolese, che mia madre per vivere faceva la fornaciaia, aveva imparato anche a fare la pellicciaia, ma faceva, quando c'era lavoro nelle fornaci, lavorava nelle fornaci, pensa cosa significa andare a Parigi. Certo, quindi tua mamma parte. Mia madre parte, le viene rilasciato il passaporto, temporaneo naturalmente come si faceva allora, ma espatria in modo legale. Devi considerare che comunque in Francia c'era già una forte immigrazione antifascista certo. nelle grandi città francesi, in particolare a Lione, il sì. fratello di mia madre, che era scappato nel 30, era, insomma, siamo proprio una famiglia di profughi, si era fermato a Lione e a Lione poi mise su anche famiglia, poi andò in Spagna, vabbè, poi la vita di queste persone si muove tra famiglia e di imprese politiche e militari. Certo. E niente, nel 35 va là e penso che sia uno dei suoi momenti più belli, ho delle belle fotografie, piccole, belle comunque, fotografie di lei a Parigi, alle feste popolari, è il periodo del Fronte Popolare in Francia, quindi c'è anche un certo entusiasmo. Poi a un certo Poi la punto guerra arriva civile. La guerra di Spagna. Ecco, e mio padre dice, almeno in una memoria che è stata anche stampata, che guardavo proprio in questi giorni, chiede al suo partito di mandarlo in Spagna. È stanco, lo dice chiaramente, di rischiare il carcere in questo traffico clandestino che fa in Italia, anche perché lui ha già subito in contumacia una condanna al tribunale speciale e chiede di andare in Spagna, e in Spagna poi lavorerà con mia madre alle radio che trasmettono in lingua italiana come se fossero, avessero sede addirittura in Italia, si chiama Radio Milano, e trasmettono questi notiziari che parlano di quello che è il punto nodale in quel momento dell'antifascismo europeo, che è il fronte spagnolo. E niente, io, mia madre non ha mai scritto, ho captato racconti, impressioni, sì. Ha imparato a fare la paella in Spagna, okay. Lei è venuta via prima dalla Spagna, però, perché poi a un certo momento la situazione si fece critica. Ed è tornata in Italia? No. È tornata, lei è tornata in Francia. Okay. Non è tornata in Italia, è tornata in Francia e ha poi aspettato mio padre che rientrerà con il grande esodo della Catalogna nel febbraio del 39. E poi quello che non ci dicono, ecco, quello che ci dicono le fonti è che poi Giovanna torna in Italia ed è una partigiana. Ti ha mai raccontato qualcosa? Una partigiana, partigiana nel senso che fa parte di quei gruppi di difesa della donna, sì. Ma non è partigiana con le armi in mano, assolutamente no. Mia madre poi era del 2, non era giovanissima. Però mio padre va nel Maquis. Lo sappiamo nella sezione del MOI, sì. Movimento Opera Immigrati sarebbe, esatto. Adesso non te lo dico in francese, sì, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa in puntata, bene, neanche a farlo apposta. E invece la Giovanna, detta Giannina, detta anche Lentina, poi ti spiego, ritorna perché i miei dopo Parigi, dopo il ritorno dalla Spagna non sono più a Parigi, soggiornano qualche settimana ancora a Parigi, poi il partito dice che devono andare a Lione, insomma sono storie che poi racconterò in altri momenti. E a Lione mia madre mantiene praticamente mio padre col suo lavoro di pelliciaia, perché tra una campagna della Fornace e un'altra aveva imparato anche a fare la pelliciaia, le donne di una volta, ma forse anche le donne di adesso. Dicevo Lentina, Giovanna Zanarini, detta Gianina per gli amici così, ma detta anche Lentina in quanto la compagna di Giulio Lenti. Lenti è lo pseudonimo di mio padre nella clandestinità. Carte pazze, sì, sappiamo anche questo, giusto? Lo sapete tutto, bravi. Di Ezio veramente sì, ma tu mi dicevi che Giannina poi non ha scritto niente dopo la guerra. Giannina non ha scritto niente. No, non ha scritto niente. Dicevo che ha scritto sulle donne della Resistenza in modo particolare, ma sì, in generale, sia della Resistenza antifascista, sia del periodo in senso stretto della lotta armata. Ha scritto Livia Morini in un libro intitolato Per essere libere. Sulla resistenza imolese, sulle donne. Sulle donne imolesi, sì. E dei dintorni, sì, di Imola. Tra l'altro recentemente a Imola c'è stato l'anniversario della uccisione in piazza di due donne, della Maria Zanotti e della Livia Venturini. E invece tuo padre ha scritto qualcosa, mio qualche padre memoria? Ha scritto, c'ho molti appunti che sto cercando di riordinare e sì, di portare al CIDRA. Ci sono dei suoi articoli in particolare sulla sua esperienza in Spagna, che guardavo proprio oggi, e ho visto poi che uno studioso che ha scritto un libro importante, Voci dalla Spagna, la radio antifascista e l'Italia 1936-1939 di Stefano De Tomasso del Rubettino, ecco, mio padre e anche mia madre sono ricordate, naturalmente mio padre di più, mia madre è ricordata come collaboratrice a Radio Milano di mio padre, e appunto viene detto che il suo nome era anche Lentina, come compagna appunto di Giulio Lenti. Giulio Lenti. Mio padre era Ezio Zanelli, era Giulio Lenti ed era anche molti altri nomi, ma certo, il nome più importante nella sua clandestinità e nella sua appartenenza politica è Lenti, Giulio Lenti. Senti Giuliana, noi ti ringraziamo tantissimo per questo brevissimo excursus sulla vita dei tuoi, davvero ne dovremmo parlare molto, ma grazie. Va bene Olga, grazie. Davanti al portone, una carta d'identità bruciata in un cortile. Troveremo vestiti diversi, stesi al vento dall'autorità, accenti da tradire. Di nuovo. Ringraziamo ancora Giuliana davvero per questa bellissima testimonianza che ha fatto dei genitori e chissà, magari continueremo a parlare di Ezio e Giovanna e magari a scoprire di più, perché noi ci teniamo molto a scoprire di più sulla figura di Giovanna. Noi abbiamo quasi finito, ma io vi segnalo, a proposito sempre di guerra civile spagnola, la mostra che è alla Rocca dei Bentivoglio, Valsamoggia, località Bazzano, che si chiama Oggi in Spagna, domani in Valsamoggia, l'antifascismo e la guerra civile spagnola nelle vite dei protagonisti di Valsamoggia. È una bella mostra, andateci perché c'è tempo fino al 30 giugno del 2019. Con questo è tutto, noi ci risentiamo la settimana prossima sempre alle 2, sempre su Radio Città Fucico, e io vi ricordo che da lunedì ci sarà il podcast di questa puntata sul nostro sito www.radiovanlon.info e ciao, un grande abbraccio da Olga, ciao!